la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui è la versione di Oscar, Oscar Giannino naturalmente, siamo in diretta 16.35, 50 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano, San Teodoro, auguri a chi si chiama Teodoro, io ho un paio di amici che si chiamano Teodoro, per questo lo ricordo, un tempo lo facevo tutti i giorni, qualcuno si infastidiva. Allora vado direttamente al punto della trasmissione di oggi per vedere se qualcuno vuole chiamarci all'800 24 0024 o altrimenti al 349 238 6666 mandarci gli sms. La domanda è: cosa ci avete capito della direzione del PD di ieri? Perché basta che io richiami titoli di quattro, alcuni dei più grandi giornali italiani, per capire che anche la stampa, diciamo, ha dato letture di questo confronto tra il segretario del PD Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Enrico Letta in chiavi molto diverse, e quindi mi pare legittimo chiedere a qualcuno, l'ospite che vi presento tra poco, di spiegarci cosa ha capito lui, ma anche di chiedere a voi cosa ci avete capito. Guardate questi titoli se vi sembrano convergenti. Repubblica apre dicendo: Renzi apre al dopo Letta, e il titolo che dà conto della direzione di ieri è: la corsa di Matteo a Palazzo Chigi, virgolette, a questo punto non posso escluderlo. Allora, se andiamo invece a Messaggero, il Messaggero prende tutta un'altra strada e dice: Matteo non esclude il voto. E anche l'apertura del quotidiano romano, diretto da Virman Cusenzi, è: Renzi a Letta c'è anche il voto. Quindi Repubblica dice: Renzi pensa di diventare premier, Messaggero dice invece: no, piuttosto vado a votare. Il Corriere della Sera, nel titolo a pagina 2, dice che il sindaco stringe i tempi ma esclude la staffetta, perdonatemi, sarebbe solo un errore, quindi una tesi comunque radicalmente diversa da quella di Repubblica. E se poi andiamo alla stampa, la stampa, secondo me, più correttamente, invece di strologare, avete sentito quanto diverse sono queste tre posizioni, la mia personalissima opinione, la stampa non strologa, ma dice, si limita a fotografare quello che ha capito. Governo Renzi prende tempo. E il titolo però messo in capo all'articolo del nostro ospite, che è stata la ragione per cui stamattina, vedendolo, ho detto no, vediamo se lui può, invito lui, il titolo del pezzo che trovate sulla stampa è: la direzione surreale, dove vince solo l'eterna melina stile DC. I duellanti si passano la palla e non decidono. Questa è la stessa cosa che ho capito io, motivo per il quale ho detto all'autore dell'articolo, che conosco da un po' di annetti, anzi decenni, di venircelo a dire lui cosa pensa e cosa pensa delle altre letture. L'ospite è Federico Geremica, appunto, della stampa. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Federico. Ciao Oscar, grazie, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori. Allora, che come tu, secondo me, dai la lettura, insomma, i democristiani si passano la palla, insomma, non si capiva bene. Com'è che poi c'è chi dice, uno, Repubblica, che vuole andare a Palazzo Chigi, l'altro, il Corriere, dice che lo esclude radicalmente, e il Messaggero dice no, ma allora andiamo a votare. Come funziona? No, vabbè, qui ci sono due livelli che si sovrappongono naturalmente. Il primo livello è le diverse interpretazioni, secondo me, diciamo, in qualche modo ne sono la spia, diciamo. Il primo livello è fatto di confusione, cioè, ed è l'interrogativo, diciamo, che riguarda il futuro del governo Letta. Insomma, su questo livello qui si sono intrecciate, si intrecciano e si intrecceranno almeno fino al 20, diciamo, almeno tre ipotesi, no? Quella che si possa andare al voto, quella che si possa rilanciare il governo Letta e quella che invece si vada a questa benedetta staffetta. Poi l'altro livello invece è la discussione di ieri, che è appunto una cosa, come dire, che è avvenuta per fortuna sotto gli occhi di tutti, visto che c'era la diretta streaming e tutti abbiamo potuto ascoltare e pochi sono riusciti a capire, come dicevi tu prima. La sensazione è stata che i due volessero evitare ancora per una volta, diciamo, la resa dei conti. La relazione introduttiva di Renzi ha avuto come massima punta polemica nei confronti del governo la frase: ci dica Letta se ritiene che così possa andare avanti, se ritiene che non sia così ci indichi i luoghi dove fare una discussione. La risposta, come dire, veramente democristiana di Enrico Letta è stata: io non voglio galleggiare, diciamo. E lì per loro due la partita poteva anche considerarsi finita. Dopodiché c'è stata una novità, però, diciamo, che il Partito Democratico, o quel che resta del Partito Democratico a guida Renzi, si è insubordinato, per cui si sono alternati alla tribuna da Fassina a Cuperlo, a Bettini, insomma dirigenti anche di primo piano, che hanno detto: badate che non ve la potete cavare così, non è che potete pensare che noi in questa direzione discutiamo del Senato delle regioni mentre ci sono i titoli dei giornali tutti che parlano di staffetta, di crisi, eccetera eccetera. Quindi Oletta o Renzi ci devono dire che futuro avrà questo governo e che cosa dobbiamo fare. E a quel punto che in replica Renzi ha detto: io ero fedele allo schema di questo aprile, insomma governo 18 mesi, le riforme eccetera, se qualcuno pensa che questo schema vada cambiato, benissimo, io convoco una direzione e ne ragioniamo il 20. Ora, che cosa diciamo di nuovo possa accadere da qui al 20 che non sia già, come dire, noto, è già avvenuto, caro Oscar, io non l'ho capito. Perdonami, ti interrompo per chiederti conferma di una cosa che è quella che avevo capito io sentendo esattamente la successione di chi prendeva la parola ieri in direzione. Non avendo visto elementi nella relazione di Renzi che mi facessero pensare che avesse cambiato idea sul fatto che non considera molto giusto fare il premier adesso senza essere passato per le urne, e avendo sentito anch'io, Enrico Letta dice non voglio galleggiare, mi avevano colpito due cose. Primo, tutti i lettiani non parlavano, quindi loro stavano coperti in buona sostanza, mentre invece a spingere, come dire, Renzi verso il governo erano esattamente coloro che quando c'è stato il congresso lo accusavano di volersi appropriare del governo da segretario del partito dicendo: beh, devi scegliere. Perfetto, guarda Oscar, è precisamente così, e se la cosa finisse così, poi naturalmente possiamo rapidissimamente discutere, diciamo, di quali interessi spinge la minoranza del PD oggi a lanciare Renzi verso Palazzo Chigi. Cioè la sinistra poi del partito, I suoi nemici, per capirci, quelli che lo hanno avversato alle primarie, diciamo. Ma se Renzi riuscisse, come dire, a far tagliare le gambe a Enrico Letta dalla minoranza interna al PD, e non è una cosa che non può fare lui, come è del tutto evidente, sarebbe un capolavoro politico. Cioè se lui riesce a ottenere che è Cuperlo a dire: caro Gianni, lì non ci puoi più stare perché, diciamo, sei un elemento di impasse, diciamo, questo sarebbe un capolavoro politico, perché insomma tra Renzi e Letta c'è il classico gioco del cerino che noi conosciamo purtroppo da troppi decenni, il famoso che fai, mi cacci, no? Cioè, quindi Letta chiede a Renzi di cacciarlo, cosa che Renzi non può fare, diciamo. Renzi chiede a Letta di dimettersi, cosa che Letta non intende fare, e quindi c'è lo stallo. La minoranza del PD, naturalmente, insomma, visto che il PD, facciamo questa analogia che per alcune cose ci sta, per altre no, comincia a somigliare sempre più alla vecchia Democrazia Cristiana, insomma, diciamo, se questi, se i cuperliani, i daleniani, i bersaniani riescono a liberarsi di Matteo Renzi alla guida del PD, perché è evidente che si porrebbe, nel caso che andasse a Palazzo Chigi, la famosa questione del doppio incarico, certo. E insomma per loro sarebbe un risultato. Ma però io questo ti devo chiedere da antico osservatore, non vecchio di età, antico osservatore della sinistra italiana. Il riproporre per la xesima volta il gioco di uccidere i leader a pochi mesi in cui hanno preso un partito in mano, per il partito in quanto tale, anche per la minoranza, non significherebbe mettere Berlusconi, quando poi si arriva al conto di questa legislatura, in condizione di dire: hanno fatto secchi due loro presidenti del Consiglio, chi le vince le elezioni? Preferirebbero perderle pur di riprendere la segreteria? Guarda, io, come dire, dal loro punto di vista mi auguro di no, però diciamo tutti i segnali che noi riusciamo, come dire, a cogliere vanno in quella direzione. Oggi i giornali sono pieni, no, del nuovo dualismo, cioè si parte da Togliatti, Napolitana, Amendola, eccetera, per dire, diciamo, che un po' nel DNA. Quindi tu dici è davvero diventata un po' come la vecchia regina, nel senso che le correnti preferiscono sacrificare il capocorrente altrui pur di... Quasi, un po'. Secondo me senza nessun dubbio. Poi guarda, si stanno ascoltando, noi appunto diciamo che ne abbiamo viste un po' delle cose veramente strambe. A me questo, figurati se io non condivido l'obiezione che a Palazzo Chigi ci si debba andare, no? Con il voto popolare, certo, come si diceva adesso con grande retorica, figurati se non lo condivido. Lo capisco di meno quando, diciamo, questa obiezione è fatta per esempio dai lettiani, certo. Cioè Enrico Letta non ha fatto primarie, non era il candidato premier alla guida del governo, il suo nome è uscito dalla classica stanza fumosa, diciamo noi. Quindi io sono d'accordo, diciamo, sulle investiture popolari, non le posso dimenticare quelli che non le hanno avute. Che non le hanno avute. Allora, adesso... non per colpa loro. No, no, però perché i fatti sono andati diversamente, sappiamo tutti, Bersani, gli errori di Bersani, cioè, poi capo dello Stato. Ho capito, però è stato così. Allora adesso abbiamo tra 60 secondi di informazione stradale, poi ricominciamo con la telefonata di un ascoltatore, Giovanni da Roma, resta lì, non attaccare, strada. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47, primi 14 secondi, prima di passare la palla a Giovanni da Roma, mentre con noi Federico Geremica della Stampa, alcuni sms che mi sono particolarmente piaciuti tra i tanti che sono arrivati. Un ascoltatore chiede: ma se Cooper e Letta fossero d'accordo? Questa domanda io non me l'ero fatta, mi sembra un po' improbabile, però poi sentiamo cosa ne pensa Federico Geremica. Tina, che coglie un punto di fondo, per così dire. Loro giocano a scacchi, intanto il paese continua ad affondare, e questo è un po' un punto di fronte al quale, secondo me, il PD dovrebbe un po' ricordarselo. Sentiamo Giovanni da Roma come la pensa. Che hai capito della direzione di ieri sera, Giovanni? Salve a tutti. Uso una metafora che utilizziamo in azienda quando ci sono riunioni di questo genere, che noi definiamo ginnastica, nel senso che rispondono alla liturgia. Lavori alla Fiat? No, non lavori. No, in cui mi consenti di non dirlo. No, in cui ci sono una serie di persone che sono chiamate a rispettare una liturgia, a raccontare in maniera inconcludente quelle che sono una serie di punti di vista. Finita la riunione, tutto resta come prima e nulla cambia. Nel senso che i due interventi di Renzi e di Letta, a mio modo di vedere, rispondono alle tesi dei giornali, perché l'escursus che hai fatto sui titoli dei giornali rende evidente che ognuno ha una propria interpretazione, perché segue la tesi che nei giorni precedenti questi giornali hanno in qualche maniera portato alimentare, e quindi è alimentato in un modo piuttosto che nell'altro. I due non hanno nulla da dirci perché sono prigionieri della situazione. Ho capito, però a questo punto poi dovrà accadere qualcosa, perché lo stallo, sì, mentre perché così si indeboliscono a vicenda. Questo a me pare oggettivo, le vecchie leggi della politica funzionano così, quindi sì, oggettivo. Se poi il PD è diventato autontimo rumeno, lo è stato spesso, cioè punitore di se stesso, voglio dire, speravo che quello che è accaduto alle elezioni e subito dopo col disastro Bersani almeno per un annetto e mezzo rimanesse vivo nella memoria. Tu dici di no, e vediamo un po' cosa ne pensa Federico. Un altro ascoltatore aggiunge: ma guardate che se Renzi si fa convincere ad andare al governo senza elezioni, con tutto quello che ha detto e la fine del gran parte della sua portata di innovativa, come fa a prendere una decisione di questo tipo? In effetti, come fa secondo te, Geremic? Lo fa perché diventa oggetto, diciamo, di un appello pressante da parte del suo partito, da parte del Quirinale, da parte di almeno una delle forze di maggioranza, il Nuovo Centrodestra, che di fronte alle di elezioni ravvicinate, diciamo, si sente molto, e secondo me giustamente, nei guai, eccetera eccetera. Sarebbe una cosa naturalmente che non chiede lui. Sarebbe una cosa che probabilmente viene dimenticata dopo 3 mesi, se il governo dovesse andar bene. E soprattutto, diciamo, nella vita si ragiona sempre sulle alternative, Oscar. L'alternativa, diciamo, per Renzi quale sarebbe? Ammesso che la situazione precipiti e che il Quirinale decida di chiedere a lui, perché non è nella disponibilità di Renzi tutta questa, o meno non solo nella sua, tutta questa partita. L'alternativa quale sarebbe? Va avanti Letta ancora, con un governo, diciamo, della cui efficacia, diciamo, molti dubitano. Ci sono delle elezioni, diciamo, peraltro il percorso di Renzi somiglia moltissimo a quello a cui andò incontro Veltroni, diciamo, e ci rimise l'osso del collo. C'è il voto sardo, ci sono le europee, c'è di nuovo il voto in Abruzzo. Cioè, cosa, come se io fossi nei panni di Letta, diciamo, farei qualche gesto scaramantico. E quindi, diciamo, l'alternativa sarebbe questa, con un Letta che magari soprattutto in virtù della grande esposizione al semestre europeo si rafforza, con lui Renzi che si indebolisce e si logora, e con la prospettiva di dover andare poi a primaria la primavera prossima. I sondaggi adesso dicono questo, con lui in grande spolvero, Renzi intendo, e gli altri in difficoltà, ma sai, tra un anno in Italia, in un anno può cambiare tutto, senza sottovalutare il fatto che, diciamo, il semestre europeo, nel caso Renzi assumesse la guida del governo, permetterebbe, diciamo, a Renzi di risolvere in 6 mesi il suo forse più importante problema che ha e che altri impiegano decenni per risolvere, cioè, come dire, affermarsi e farsi conoscere sullo scenario internazionale. Matteo è uno sconosciuto in realtà, ma insomma, se diventa invece il presidente del semestre europeo italiano, il discorso cambia. Ecco, questo è una... fai bene a sottolineare, questo è un aspetto che... voglio dire, ci sono tanti pro e contro, naturalmente è ovvio che c'è questa, lui ha sempre detto io non mi lascio cooptare, questo è vero, ma sai, Napolitano non vuole rimanere al Quirinale, lo sappiamo tutti, tanto che oggi si rintrecciano voci di dimissioni più o meno imminenti del presidente. Dopodiché, quando vengono lì in processione e te lo chiedono, allora, non puoi allontanare il cannabis. Anche lui dire: voi lo sapete, io non ho mai preso nulla per cooptazione, dalla provincia di Firenze al comune di Firenze alla segreteria del PD sono sempre passato attraverso le primarie, stavolta mi hanno chiesto un percorso diverso, per senso di responsabilità, eccetera eccetera. Una via d'uscita c'è sempre, intendiamoci, ma secondo me non è l'ipotesi principale quella di una staffetta tra mentre è vero, io l'ho scritto, diciamo, l'altro ieri, e a me almeno risulta che Renzi abbia cambiato idea su questo punto, nel senso che se venisse chiamato con questa modalità, diciamo, e in questo quadro, non si sottrarrebbe, lui non si sottrarrebbe, mentre dai come più bassa l'ipotesi del voto. Ma io la do più bassa perché continuo, come dire, ad essere ottimista con la capacità di intendere e di volere leader politici. Qui è una questione di ragionevolezza. Io ricordo a chi in ascolto che oggi c'è stata una novità europea di un certo rilievo, perché la Corte di Karlsruhe, l'equivalente alla nostra Corte Costituzionale, ha deferito il programma straordinario che ci sta reggendo sui mercati da quando, da luglio dell'anno scorso, Draghi l'ha annunciato con la sua famosa frase whatever it takes, l'ha deferito alla Corte di Giustizia Europea. E questo significa che nei prossimi mesi, fino a che la Corte di Giustizia Europea si pronuncia, la BCE ha le armi spuntate, quindi per i paesi come noi sono guai, e per di più ci sarà l'atmosfera che sale per la campagna elettorale, perché siamo a paesi come l'Olanda che hanno oggi l'apertura di tutti i giornali sull'uscita dell'Olanda dall'euro. Quindi la cosa del semestre gestito forse da Renzi è un aspetto che nessuno aveva sottolineato fino a questo momento. Sentiamo rapidissimamente come la pensano alcuni altri ascoltatori. Marco da Salerno, prego Marco. Salve, buonasera a tutti. Sì. No, volevo sottolineare un aspetto, cioè che l'approvazione della legge elettorale, a mio modo di vedere, per Renzi rappresenta lo spartiacque della sua attività politica, della sua strategia politica. Oggi Renzi può lavorare al di fuori del governo, stimolarlo, cercare di fare delle riforme che oggettivamente Letta non sta facendo. Però non può, secondo me, se non c'è una legge elettorale maggioritaria e senza il voto di preferenza. Quindi il voto lo escludi? No, il voto non lo escludo. Una volta approvata la legge elettorale, Renzi potrà spingere sul governo minacciando in maniera evidentemente più veemente alle urne. Però intanto il 20 febbraio viene prima, il 20 febbraio viene prima della prossima legge elettorale. Sentiamo Vincenzo da Catania rapidamente, come la pensa? No, devi abbassare perché sennò si sente la radio. Vincenzo. Sì, pronto, buonasera. Rapido. Ciao, io volevo continuare il suo discorso, Giannino. Secondo me, quello che stava finendo poco fa con l'altro ascoltatore, secondo me stiamo andando verso 6 mesi di fuoco, verso le elezioni europee. Sì, penso anch'io. Sì, e credo che Renzi abbia una palla veramente infuocata tra le mani. Va bene, io la devo fermare qua e ringraziare moltissimo Federico Geremica, che richiamerò se lui si rende disponibile, perché mi sembra una delle voci più ragionevoli di quelle, insomma, i giornalisti spesso preferiscono dirvi quello che pensano, prima bisogna, diciamo, un po' rispettare di più i fatti. Grazie Federico Geremica, a Controllo del Grande 24, appuntamento con me a domani, anzi lunedì.